America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Pechino, Mario Platero. Sono arrivato nella capitale cinese per seguire i lavori dell'APEC, l'Asian Pacific Economic Cooperation, un gruppo di 22 paesi che si affacciano tutti sulle coste del Pacifico, sia da parte americana, quindi Nord e Sud America, che asiatica, quindi dall'Australia al Giappone alla Cina, e che insieme hanno cercato di capire se era possibile creare un'area di libero scambio nel Pacifico. Questo era l'obiettivo originario, difficile, poi si sono accorti tutti, tant'è vero che sono partiti poi dei negoziati più specifici, e cioè dei negoziati regionali. Ecco, già nella giornata di oggi ci sono stati incontri anche bilaterali. Questi vertici rappresentano sempre l'occasione per poter cercare di fare dei passi in avanti laddove ci sono degli ostacoli da superare. Xi Jinping, il presidente cinese, ospite impeccabile, ha accolto ciascuno dei leader, e devo dire che ci sono due aspetti simbolici importanti in questo vertice APEC che si tiene a Pechino, perché da una parte Xi Jinping rappresenta il potere solido e una nazione in grande ascesa, dall'altra Barack Obama arriva come presidente sconfitto alle nazioni, alla guida di un paese che secondo molti è in una fase di declino. Vi anticipo che il presidente americano terrà un discorso alla fine di questo viaggio asiatico, un viaggio lungo che poi lo porterà a Myanmar, lo porterà in Australia per un vertice del G20, proprio per rilanciare la leadership economica americana. Grow our exports and open new markets for our manufacturers to sell more American made goods to the rest of the world. And that's something I'll be focused on when I travel to Asia next week. Uno degli aspetti chiave riguarda l'apertura commerciale. Gli Stati Uniti stanno negoziando con un gruppo di nazioni asiatiche la creazione di un'area di libero scambio. La cosa ormai è praticamente fatta, ma è proprio attorno a questo negoziato commerciale che si sviluppano, secondo me, delle dinamiche molto interessanti, soprattutto nel rapporto fra Stati Uniti e Cina. Barack Obama arriva in Asia, forse il viaggio più importante asiatico della sua presidenza. Peccato che lo debba fare da una posizione di debolezza, però da Pechino il presidente andrà a Myanmar, dove ci sarà un vertice dell'ASEAN, un'associazione di paesi del sud-est asiatico che include Indonesia, Filippine, Thailandia, Brunei, Myanmar, appunto, ed è più un'associazione politica che economica. Da lì andrà a Brisbane in Australia, dove si terrà il G20 e dove rincontrerà molti dei leader che aveva già incontrato a Pechino e alcuni dei leader che aveva incontrato a Myanmar. Tra l'altro al G20 ci sarà un incontro, non sappiamo se ravvicinato o meno, con il presidente Putin. Ma torniamo alla relazione fra Stati Uniti e Cina, perché è l'aspetto centrale di questo viaggio del presidente Barack Obama. The triumph of competitive liberalization as the driving strategy for the global trading system. That's an idea which is now proceeding boldly across the world with the negotiation of three mega regional agreements. Fred Bergsten è uno dei più importanti economisti internazionali. L'ho sentito proprio per chiacchierare con lui di questo vertice APEC, e devo dire che ci sono delle percezioni fra gli economisti, gli osservatori politici, delle percezioni, dicevo, molto interessanti. E cioè, da una parte la Cina, che è fuori del TPP, e cioè della Trans-Pacific Partnership, potrebbe cercare magari di recuperare un ingresso, perché si rende conto che questa partnership va avanti. Gli Stati Uniti cercheranno di imporre condizioni, per esempio sul trattamento del lavoro, per esempio sui diritti civili e così via, che insospettiscono la Cina. Dunque, al di là dei sorrisi, al di là di questo straordinario albergo dove siamo e dove si tiene il vertice, Yankee Lake, che è un'opera architettonica straordinaria, pensate, rappresenta l'occhio di un uccello, quindi è un grande ovale di vetro, un enorme ovale di vetro che si affaccia sul lago, dove i leader si stanno incontrando e dove noi abbiamo uno dei nostri centri stampa, un albergo che è il simbolo stesso della forza cinese. Eppure Barack Obama, nel momento in cui la Cina chiede di costituire una banca regionale per lo sviluppo, con una donazione, con un contributo di 100 miliardi di dollari, resiste. Nel momento in cui il Fondo Monetario Internazionale ha ratificato attraverso i suoi paesi membri una ristrutturazione delle quote, il Parlamento americano resiste. Ecco, sono questi gli aspetti che preoccupano nella gestione della leadership americana, e torno a Bergsten, che è uno dei più importanti, vi dicevo, economisti internazionali, il quale dice: Obama sbaglia, non dovrebbe ostacolare la nascita e la creazione di questa nuova istituzione, è un'istituzione che aiuta, è un'istituzione per il dialogo. Auguriamoci tutti dunque che a questo vertice APEC si possa dialogare, e soprattutto che al vertice fra Barack Obama e Xi Jinping si riescano a trovare degli accordi centrali, importanti, fondamentali per rilanciare la crescita mondiale e la crescita naturalmente europea. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee, potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, sono a Pechino, sono in Cina, io vorrei rendere omaggio a questo straordinario paese con una canzone americana. Tori Amos, China. Sometimes I think you want me to touch you. How can I when you build a great wall around you? In your eyes I saw a fear. Pechino è tutto, Mario Platero al seguito del presidente Obama vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!